Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Marchionne a poche ore dall'incontro con i sindacati, senza intesa dice Pomigliano, chiude. DDL intercettazioni, la protesta dei giornali, il presidente del Senato Schifani, non si coinvolga il capo dello Stato. Il Papa chiede scusa per gli abusi dei preti pedofili, non deve succedere mai più, dice. Si alza il sipario sui mondiali di Sudafrica 2010, ma Mandela, in lutto per la morte di una nipote, non sarà all'inaugurazione. Ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura il nuovo incontro fra un paio d'ore fra Fiat e sindacati sul futuro di Pomigliano. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Ore decisive dunque per il destino di due tra gli stabilimenti storici della Fiat. Partiamo da quello campano di Pomigliano d'Arco. Poco fa è arrivato un vero e proprio diktat dall'amministratore delegato del Lingotto Marchionne. Senza accordo lo stabilimento chiude, ha fatto capire il manager. Alle 15 inizierà dunque il nuovo incontro tra aziende e sindacati che dovrà per forza di cose arrivare ad un punto definito. Ricordiamo che il nuovo piano industriale del Lingotto prevede che Pomigliano ospiti la produzione della Panda, che lascerebbe così la Polonia, a patto però, ed è qui l'ostacolo maggiore, che Pomigliano si adegui agli standard produttivi degli stabilimenti internazionali del gruppo torinese. Per i sindacati, in particolare per la FIOM, gli ostacoli non sono sul lato della produttività ma su quello delle tutele dei lavoratori. Secondo il sindacato che fa riferimento alla CGIL vi sarebbero infatti delle deroghe al contratto nazionale, tra l'altro sulle sanzioni che lederebbero i diritti degli operai. Su Termini Imerese infine il confronto tra le parti interessate, presente il governo in corso al Ministero dello Sviluppo Economico, si stanno esaminando le proposte arrivate per il futuro del polo siciliano. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E prosegue il dibattito sul DDL intercettazioni, passato ieri in Senato con il voto di fiducia al governo. Oggi il presidente del Senato Renato Schifani difende Napolitano invitando a non coinvolgere il capo dello Stato, dice Schifani, con richieste di non firmare provvedimenti sui quali il Parlamento ha legiferato. Riferimento all'appello che Italia dei Valori aveva rivolto al Napolitano del disegno di legge. Intanto abbiamo chiesto un parere al presidente dell'autorità garante per la privacy, Francesco Pizzetti. Lo ha intervistato Stefano Totoro. Noi abbiamo sempre detto che le intercettazioni sono essenzialmente prima di tutto uno strumento di indagine giudiziaria. Non è compito dell'autorità sapere se sono troppo pochi fatti di reato per i quali si può intercettare e se le procedure adottate per regolare le intercettazioni sono più o meno idonee a consentire il pieno utilizzo di questo strumento. Questo è giusto che la magistratura intervenga perché è una sua specifica competenza. La privacy cosiddetta interviene viene a chiedere ai giudici la protezione del materiale giudiziario acquisito attraverso le intercettazioni, la rigorosa protezione per evitare violazioni e fughe di notizie che prima di tutto lederebbero la giustizia e poi ovviamente lederebbero gravemente anche i singoli coinvolti. Detto questo, se poi in una legge si fa una scelta di vietare comunque la diffusione del contenuto delle intercettazioni fino a un determinato momento, è una scelta impegnativa che poi questo significhi spostare il cursore totalmente alla copertura e alla riservatezza di questi contenuti, creando dei limiti alla loro diffusione, è sicuramente vero. E poco fa da Bruxelles l'opinione della Commissione europea, che fa sapere non commenta bozze di provvedimento che sono ancora in discussione del Parlamento, ma è chiaro che siamo molto vigili, fanno sapere, su qualsiasi situazione che possa creare problemi. E il tema intercettazione è stato oggi anche il tema del nostro sondaggio. Giornali, listati a lutto, una scelta che approvate, vi abbiamo chiesto. Il 63% ha risposto di sì, il 37% ha risposto di no. Sentiamo dunque Franco Siddi, segretario della Federazione Nazionale della Stampa, intervenuto questa mattina al microfono di Alessandro Milan. Non si tratta di fare paragoni irriverenti, indubbiamente però nel 23 è accaduto qualcosa di simile. Oggi credo che non si possa arrivare al 25, cioè all'instaurazione del regime. Credo non ci siano le condizioni, per fortuna, e gli strumenti, il grado di partecipazione, di attenzione, dell'informazione è differente, l'informazione viaggia nel mondo in tempo reale e tutti, quindi non credo ci siano degli anticorpi, che sono, però ciò che è accaduto è esplicitamente, chiaramente, una riproposizione che è successa nel 23. Avete proclamato anche, detto credo il 9 luglio, il giorno della proclamazione finale alla Camera, uno sciopero. Sì, perché vogliamo segnalare in maniera rumorosa, con un silenzio appunto rumoroso, la gravità di questa legge. L'Italia ha fatto esattamente quello che speravamo. La Commissione europea applaude alla decisione di innalzare l'età pensionabile delle dipendenti pubbliche dal 1 gennaio 2012 e spera che le misure possano aiutare il consolidamento delle finanze pubbliche. Il testo è adesso atteso a Bruxelles per una valutazione nel dettaglio del provvedimento, valutazione alla quale, salvo sorprese, dovrebbe seguire la decisione di chiudere la procedura di infrazione aperta un anno fa. Ma proprio in questi minuti si sta tenendo un convegno bipartisan a Roma, ci colleghiamo con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, si poteva fare prima, si poteva fare meglio, in maniera più graduale, ma la misura era comunque necessaria. All'indomani del via libera del governo, senatrici di maggioranza e opposizione, economisti e rappresentanti di associazioni femminili fanno il punto sull'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego, un'iniziativa della vicepresidente del Senato Emma Bonino, e su una cosa sono tutte d'accordo. La misura deve essere girata in una possibilità di cambiare passo rispetto alle politiche al femminile. Ogni euro che viene dall'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne si chiede deve essere indirizzata a maggiori servizi a rilancio dell'occupazione femminile. Alcune cifre scaturite dal dibattito che dimostrano quanto il nostro paese sia indietro: l'accesso agli asili nido è di 9 su 100 contro i 50 del nord Europa, l'accesso al mercato del lavoro è del 46% contro il 60 della media europea. Si faccia pure la parificazione dell'età pensionabile, dicono in conclusione da destra e sinistra le donne, ma ora si pensi alla parità dei diritti delle donne nel nostro paese. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi, e un premio al talento delle idee, 270 le domande arrivate. Oggi la premiazione dei primi tre del concorso di Unicredit Giovani Imprenditori di Confindustria, per il quale oggi si apre il 40° convegno a Santa Margherita Ligure. Stefano Cassani, classe 74, è il primo classificato con la sua macchina per la separazione delle plastiche. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Per me oggi ricevere questi premi è una grandissima soddisfazione, perché è il coronamento di anni e anni di impegno volto all'innovazione. È un premio che mi permette di crescere molto rapidamente nella società che produce macchine per selezionare le materie plastiche. Da quando ho ricevuto il premio nel distretto Emilia-Romagna Toscana ho vissuto un'accelerazione impressionante e un circolo virtuoso in cui sono stato contattato da parecchie aziende interessate al nostro prodotto, interessate come clienti, come partner nel business. Qual è l'innovazione? L'innovazione è una macchina per separare i materiali. Rispetto alle macchine esistenti sul mercato abbiamo maggiore qualità di separazione e una produttività molto superiore, quindi sarà una macchina che rivoluzionerà il mercato delle macchine per il recupero dei materiali plastici. Cambiamo decisamente argomento. Con una messa a San Pietro il Papa ha chiuso l'anno sacerdotale chiedendo perdono per i preti pedofili. Chiediamo insistentemente perdono a Dio e alle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile affinché un tale abuso non possa succedere mai più. Un invito collettivo al pentimento, una richiesta di perdono per lo scandalo pedofilia, come da previsioni quelli pronunciati da Benedetto XVI durante la messa in San Pietro, che ha chiuso l'anno sacerdotale, culmine di una serie di pronunciamenti che hanno contraddistinto la linea della tolleranza zero. In quest'anno di gioia, ha ricordato Ratzinger, è successo che siano venuti alla luce i peccati dei sacerdoti, diventando così un'occasione di purificazione per la Chiesa tutta. E come il pastore che ha bisogno del bastone per proteggere il suo gregge, anche la Chiesa deve usare il bastone del pastore per proteggere la fede contro i falsificatori, contro i comportamenti indegni della vita sacerdotale. Dal pontefice all'impegno a fare il possibile affinché nell'ammissione al ministero sacerdotale e nella formazione sia vagliata l'autenticità della vocazione. Katia Caramelli, GR24, il Sole 24 Ore. La Cassazione ha deciso di trasferire il processo e l'inchiesta del G8 Grandi Eventi dalla Procura di Firenze a quella di Roma. Ci colleghiamo con Firenze e con il nostro Ubaldo Cianciulli. Signora, buongiorno. L'inchiesta sui grandi appalti per il G8 dello scorso anno, condotta dalla Procura di Firenze, è stata trasferita a Roma e rischia di subire un brusco rallentamento. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, ma ciò nonostante non vengono meno le misure cautelari nei confronti degli indagati. Non c'è, ha spiegato la Suprema Corte, un automatismo tra la dichiarazione di incompetenza territoriale e la validità delle misure cautelari che possono protrarsi per altri 20 giorni. L'appello alla Corte di Cassazione era stato presentato dai legali degli indagati Fabio De Sanctis, ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, dell'imprenditore Francesco Piscicelli e dell'avvocato Guido Cerruti. In questo modo non sarà celebrato il processo con rito immediato che sarebbe dovuto iniziare a Firenze martedì prossimo. I difensori dell'imprenditore Piscicelli hanno già presentato istanza per la scarcerazione immediata del proprio assistito per la scadenza dei termini di detenzione preventiva e tra breve analoga richiesta sarà avanzata anche dagli avvocati di De Sanctis, che si trova agli arresti in carcere, mentre Piscicelli ai domiciliari per motivi di salute e Cerruti è sottoposto all'obbligo di firma. Ubaldo Cianciulli, GR24, Sole 24 Ore, Firenze. Oggi giornata di scioperi dei trasporti in tutta Italia, sentiamo. Incrociano le braccia gli autoferrotranvieri dei sindacati USB, Cobas Lavoro Privato e Slai Cobas. Si fermano, dicono, contro il taglio dei salari e contro il tentativo di imporre condizioni di lavoro che riportano la categoria indietro di qualche decennio. L'obiettivo è ottenere aumenti salariali in linea con quelli europei e maggiori garanzie per la sicurezza e la tutela della salute. A Roma l'ATAC, l'azienda del trasporto pubblico, fa sapere che ci sono delle riduzioni nelle corse della metropolitana, specie sulla linea A. Sulla linea ferroviaria Roma-Lido, al contrario, tutto è regolare. Situazione opposta sulla tratta Roma-Viterbo, dove le corse sono sospese. Nella capitale lo sciopero è partito alle 8 e i trasporti saranno garantiti fra le 17 e le 20, mentre si potrà viaggiare senza problemi fra le 15 e le 18 a Milano. Anche se, fa sapere l'ATM, le linee della metropolitana circolano regolarmente, come anche il 70% di quelle in superficie. L'adesione allo sciopero dei conducenti di autobus e tram è infatti del 29%. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'incontro ormai imminente alle 15 Fiat sindacati sul futuro di Pomigliano. L'amministratore delegato Marchione questa mattina ha detto: senza intesa Pomigliano chiude. DDL intercettazioni dopo il via libera con la fiducia ieri al Senato, la protesta dei giornali. Schifani dice: non si coinvolga il capo dello Stato. E poi la messa di questa mattina del Papa, che chiede scusa per gli abusi dei preti pedofili. Non deve succedere mai più. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Eccolo qua, l'inno dei mondiali che partiranno fra pochissimo. Dario Ricci. Sì, buongiorno dal Soccer City Stadium di Johannesburg, dall'inno ormai famosissimo di Shakira. Passiamo al sottofondo altrettanto noto ormai delle vuvuzela che stanno riempendo insieme agli 80.000 spettatori lo stadio, che fra poco alle 14 vedrà l'inizio della cerimonia inaugurale e poi alle 16 l'inizio del mondiale giocato, il primo mondiale africano della storia ad aprire. Il torneo saranno i padroni di casa del Sudafrica contro il Messico. Notizia di questa mattina: non ci sarà Nelson Mandela. Che eh sì, purtroppo non comincia bene questo mondiale, comincia con una brutta notizia, quella della mancata partecipazione di Mandela a causa purtroppo di un lutto in famiglia. Esattamente, in qualche modo ricollegato anche alla musica che sentivamo in apertura, perché una pronipote di Mandela, Zenani Mandela, di 13 anni, è scomparsa stanotte in un incidente stradale proprio dopo il concerto che si è svolto all'Orlando Stadium di Soweto, che ha avuto visto Shakira tra le protagoniste, tra gli artisti protagonisti. Un incidente stradale, l'autista dell'auto è stato arrestato per omicidio colposo, le indagini sono in corso. Un lutto che ha colpito da vicino il vecchio leader, che ha subito dopo poche ore ha annunciato la sua mancata partecipazione qui alla cerimonia inaugurale del Soccer City Stadium. Giustamente. Veniamo invece agli italiani, perché ci sono delle dichiarazioni questa mattina piuttosto importanti, scottanti. Sì, direi di sì. Al ritiro azzurro di Centurion, oggi l'Italia sarà impegnata nel pomeriggio in una sgambata contro una formazione locale. Ha parlato il capitano Fabio Cannavaro, che è ritornato sulla decisione della squadra di devolvere gli eventuali premi del Mondiale, parte di quegli eventuali premi alla Fondazione per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Cannavaro ha detto la nazionale e i suoi giocatori sono fatti per unire e non per dividere. Padania, no, che tutti tifino Italia, siamo un paese basato che ha nel calcio una sua espressione importante, allora che tutti i tifosi siano uniti e che ci spingano dalla stessa parte. Parole importanti quelle del capitano, che poi ha cercato di far chiarezza anche sul futuro di Marcello Lippi, che lo sappiamo dopo i mondiali verrà sostituito da Prandelli sulla panchina azzurra. Lippi a Dubai, Cannavaro ha detto lui che ha scelto gli Emirati. Non ha ancora deciso invece il CT quale sarà il suo futuro. Insomma, sono polemiche queste, anche un po' politiche, che dall'Italia rimbalzano fino lì in Sudafrica. Sì, direi di sì, anche se poi il paese chiaramente qui è concentrato sulla su ben altro, quella che poi sarà la partita. Oggi tutti i giornali ho tra le mani il Daily Sun, ma è un titolo comune a tutti, vincete per lui, e vicino c'è la foto di Nelson Mandela, vincete per il Sudafrica, e questo l'invito è Bafana Bafana. Ci sono 80.000 e più vuvuzela a spingerli verso la vittoria. Vedremo se il Messico sarà d'accordo, Chiara. Sì, Dario, grazie mille. Dunque, che la festa tutto sommato cominci. Naturalmente vi terremo aggiornati oggi nel corso di speciali, nel corso di collegamenti nel GR24 con Dario Ricci, dunque mondiali in diretta anche con Radio 24. Ed ora cambiamo argomento, parliamo del nostro mare, perché oggi c'è stata la consegna delle vele blu di Legambiente e Touring Club. Tra pochi giorni Legambiente si rimetterà in barca e navigherà in lungo e largo i corsi d'acqua e i mari per dirci chi ha le acque più pulite, dove è meglio fare il bagno quest'estate. Sta per partire infatti Goletta Verde. Intanto si presentano i comuni che quest'anno si sono aggiudicati le 5 vele. I criteri per la valutazione sono relativi alla qualità dell'acqua, alla sostenibilità del comune interessato, e in questo si conteggia raccolta differenziata, risparmio energetico e utilizzo di energie alternative e capacità di accoglienza turistica. Al primo posto c'è un comune del Salernitano, Pollica, che dribblando tra tutti i luoghi comuni consegna ai turisti uno dei mari più belli d'Italia. Seguono le 5 terre liguri. Il resto della classifica ce lo racconta il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza. Poi Ostuni, Capalbio, Castiglione della Pescaglia e via di seguito fino ad arrivare a Capraia, Salina, Otranto. Insomma, sono 14 località sparse tra Toscana, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Dalle vele di Legambiente alle vele della barca di Abby Sunderland. I soccorritori, questa è una buona notizia, sono riusciti a rintracciare la giovanissima velista statunitense che da ieri risultava dispersa nell'Oceano Indiano. È viva e sta bene. 16 anni, la Sunderland era partita in gennaio dalla California per la traversata del mondo in solitaria sulla sua barca di 12 metri, un'impresa che ha suscitato molte polemiche sia per la giovane età della ragazza, appunto 16 anni, sia per la stagione scelta per la traversata, cioè l'inverno, che naturalmente è più pericoloso. Contrario a queste sfide precoci, lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Io sono contrario a tutte le situazioni estreme di una società che si vive soprattutto come performante, quindi ha la psicopatologia dominante della depressione, perché spesso ci si sente depressi anche da ragazzi, da giovani, perché si ha la sensazione nevrotica di non poter godere abbastanza di tutte le occasioni, di tutte le possibilità, di tutte le sfide che la vita può offrire. Infatti la cocaina è la droga di questa generazione. Allora, tutto ciò che porta verso la ricerca dell'estremo difficilmente a 14 o a 16 anni è risultato di una ricerca di sé approfondita come poteva essere quella di Ambrogio Fogart o di Sir Francis Chichester, che arrivano a queste sfide estreme verso il termine o verso la metà della vita, non all'inizio. All'inizio io credo che servano invece dimensioni più corali, gruppali, comunitarie, di relazione. La sfida estrema è un punto di arrivo, non un punto di partenza. Messo al punto di partenza rischia di diventare il punto estremo di una patologia narcisistica di cui già soffrono troppo i ragazzi, già soffrono troppo i giovani, già soffrono troppo anche quelle famiglie che spingono i ragazzi a sport agonistici anabolizzandoli, pensando che dal successo agonistico venga la compensazione delle frustrazioni di tutti. La provincia di Alessandria come Dubai. Ad accomunarle una pista coperta per lo sci che tanto piace negli Emirati Arabi. In Piemonte tutto è pronto, ad Alessandria dunque, per costruire entro il 2013 il primo impianto di questo genere in Italia. Un progetto ambizioso, ma che secondo gli organizzatori attirerà il pubblico anche dall'estero, servirà agli atleti per allenarsi e non dovrebbe far rimpiangere le tradizionali piste naturali. Sentiamo cosa ne pensa di queste strutture la olimpionica di sci di fondo Manuela Di Centa al microfono di Roberto Bonaldi. Dà la possibilità di fruizione alla gente che in pianura ovviamente non vive vicino alla neve. Io sono anche convinta che lo sci in generale ha bisogno di un'impiantistica più specifica, non solo la pista o il tracciato che deve essere tecnicamente fatto in un certo tipo, ma anche l'arena, il cosiddetto stadio. Ho nel cuore lo sci, per cui io farei sorgere skidon dappertutto. È chiaro che ha un fascino particolare, perché le assicuro, entrare a meno 3 nella pista di Dubai quando fuori c'erano quasi 40 gradi è una cosa veramente che illumina d'immenso. Il divertimento non posso che dire che insomma quando si è in mezzo alla natura è ben cosa diversa. Credo che una grande positività da questi skidom venga dal fatto che l'accesso è soprattutto a chi non sa sciare, ai bambini che la prima volta accedono a queste piste, e questo è propedeutico poi per poter andare magari sulle piste alpine o appenniniche e poter essere in grado di essere già preparati ad avere già una prima infarinatura. Ed ora sentiamo ancora della musica, perché è stato cancellato il concerto tributo a Roma ad un anno dalla morte di Michael Jackson. There's a place in your heart. Solamente 3.500 biglietti venduti, davvero troppo pochi per riempire lo Stadio Olimpico di Roma, e così è stato cancellato il concerto tributo per Michael Jackson previsto per il 25 giugno. Ad annunciarlo la World Live Entertainment, la società che doveva organizzare l'evento e che ha voluto nel frattempo rassicurare coloro che hanno già comprato il biglietto che saranno rimborsati entro il 30 giugno. Volevamo rendere onore a Michael, ha scritto la World Live Entertainment, ma la risposta del pubblico italiano non c'è stata. E insieme al rammarico la denuncia, la nostra società è incappata purtroppo anche in personaggi ambigui che hanno minato la credibilità del tributo. Forse la famiglia del re del pop voleva ancora una volta guadagnare sulla morte di Michael, ma senza grandi investimenti. Il concerto prevedeva infatti l'esibizione di artisti non così tanto famosi in Italia, a parte Dionne Warwick. Sui blog dei fan molte le discussioni che invitavano a diffidare di questo concerto tributo, perché non solo il cast non era stato mai confermato definitivamente, ma i biglietti costavano troppo, dai 70 ai 90 euro. E ora i fan più appassionati, sempre sui blog, oltre a esprimere sdegno e amarezza per l'annullamento, invitano tutti coloro che siano realmente motivati ad andare a Roma a celebrare Michael Jackson gratuitamente, per ricordarlo tutti insieme cantando le sue canzoni. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, al di là del vetro Fabio Cantadori. Il prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.